Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. L'11 settembre, prima di quel terribile pomeriggio newyorkese del 2001, era già una ricorrenza tragica. In quel giorno, infatti, nel 1973, in Sud America, per la precisione a Santiago, in Cile, va in scena uno dei più sanguinosi colpi di Stato della storia contemporanea. Non vedo perché dovremmo restare con le mani in mano a guardare mentre un paese diventa comunista a causa della irresponsabilità del suo popolo. La questione è troppo importante perché gli elettori cileni possano essere lasciati soli a decidere. Queste parole, quantomeno controverse, vengono pronunciate da Henry Kissinger, segretario di Stato americano, nel 1973, anno in cui, curiosamente, riceve anche tra mille polemiche il premio Nobel per la pace per l'impegno profuso per la cessazione della guerra in Vietnam. Proprio con l'appoggio statunitense, l'11 settembre del 1973, il governo socialista cileno di Salvador Allende viene ribaltato con una carneficina. Il generale Augusto Pinochet guida il colpo di Stato militare con il pieno sostegno dell'alta borghesia e della classe industriale. Aerei da guerra bombardano selvaggiamente il palazzo presidenziale. Allende muore, i militanti socialisti vengono annientati nel sangue, lo Stadio Nacional diventa un immenso campo di concentramento. 17 dicembre 1976. Sono passati 3 anni da quel terribile giorno. Lo stadio ha un aspetto completamente diverso. Fiori colorati e profumati saturano l'aria. Bandiere di paesi di tutto il mondo sembrano far respirare un'atmosfera salubre di cosmopolitismo. Una folla festante e serena è assiepata sugli spalti. Sono gli elementi scenografici di un grande inganno. Si gioca la finale di Coppa Davis, la massima competizione mondiale a squadre di tennis, e il Cile ne approfitta per mostrare al mondo una faccia diversa e fasulla, festosa, accogliente, organizzata. Un inganno ordito dal regime, orchestrato da Pinochet e sostenuto da quella borghesia media e alta che aveva sorretto il golpe. Nella posizione scomoda di ospite d'onore di questa messa in scena c'è la squadra avversaria del Cile, l'Italia. È la terza finale per gli azzurri del tennis. Le prime due, nel 1960 e nel 1961, l'Italia le ha perse. Questo potrebbe essere il primo successo. Il Cile è un avversario assai modesto ed è giunto in finale perché diverse squadre, ultima l'Unione Sovietica, si sono rifiutate di giocare per protesta contro le efferatezze del regime di Pinochet. Chiaro che anche in Italia si scateni il dibattito. Giocare o non giocare? Andare in Cile o non andarci affatto? La discussione finirà addirittura in Parlamento e alla fine la nazionale italiana volerà in Sud America. Nella tempesta di queste polemiche si stagliano le figure straordinarie di due eccezionali atleti italiani, il cui destino si snoda attorno a questa difficile prova. Due uomini che sono due pezzi di storia del tennis italiano. Il primo dei due in quell'anno siede sulla panchina azzurra, capitano non giocatore. Il coach, in poche parole, si chiama Nicola Pietrangeli. Nicola Pietrangeli. Nicola Pietrangeli, nel 1976, ha 43 anni, ha appeso la racchetta al chiodo ed è coach della nazionale italiana. Per anni però è stato ai vertici del tennis mondiale, campione di straordinario talento per oltre un decennio. Ha sfiorato anche lui la vittoria in Coppa Davis, nelle due finali perse dall'Italia contro l'Australia nel 1960 e nel 1961. Sconfitte maturate anche a causa del discutibile meccanismo della competizione. All'epoca c'era un regolamento diverso, perché c'era questo famoso, perlomeno, si giocava il Challenge Round. Il Challenge Round vuol dire che chi vinceva la Coppa Davis giocava solo un incontro l'anno dopo, perché aspettava che si scannassero tutti e poi la giocavi nel paese del vincitore. E francamente la squadra australiana sull'erba era più forte della nostra. Anche se io avessi vinto, poteva anche darsi, due singolari e avendo pure noi un fortissimo doppio con Sirola, la squadra australiana era più forte. Pietrangeli è nato nel 1933 a Tunisi. La madre è russa, il padre è italiano e tennista di buon livello. Proprio dal genitore Pietrangeli prende la passione per la racchetta. Come spesso succede, il ragazzino scimmiotta il padre. Che noi abitavamo in Tunisia, mio padre era il numero due di Tunisia, e io andavo da ragazzino, andavo al tennis e naturalmente giocavo contro il muro, insomma, con i bambini piccoli che rompono le scatole ai genitori che vogliono giocare. E poi praticamente a un certo momento durante la guerra si è giocato un po' meno e poi subito finita la guerra mio padre, come molti altri, è stato messo in campo di concentramento, quindi per me il tennis club era finito. Solo che io a casa avevo una racchetta di mio padre, che era enorme per me, e giocavo contro il muro. Io ho giocato delle ore contro il muro e devo dire anche sperando di batterlo e naturalmente non ci sono mai riuscito. Come molti atleti destinati a diventare campioni, Nicola Pietrangeli da ragazzino mostra soprattutto una dote, la coordinazione naturale. Sembra infatti portato per tutti gli sport, in particolare per il pallone. Il padre però lo spinge verso il tennis. Quando nel dopoguerra i Pietrangeli tornano in Italia, Nicola ha 13 anni e incoraggiato dal padre mette a frutto gli estenuanti allenamenti contro il muro. E ho cominciato al circolo via Flaminia da Venturini, dove c'era il famoso Palmieri, padre, Giovannino Palmieri, che è stato un campionissimo, è stato un bravissimo giocatore, che faceva il maestro lì, e ho cominciato a giocare col figlio, con Alberto, che è il fratello di Sergio, che oggi è il direttore del torneo di Roma. E così ho cominciato. Poi nel frattempo giocavo anche a pallone e ho giocato per 3 anni nei ragazzi della Lazio. Quando a un certo momento la Lazio mi ha voluto dare in prestito, non mi ricordo, dico adesso un nome qualsiasi, la Viterbese piuttosto che la Scafatesa, non lo so. Io ho detto no, io voglio viaggiare. E col calcio, lì all'epoca, a parte anche oggi, insomma, si viaggia un po' meno, adesso di più, ma insomma all'epoca certamente no, ero andato con la squadra juniores del tennis Parioli, poi all'epoca, a Napoli a giocare un incontro juniores. E allora avevo visto che ero andato a Napoli e mi sono detto forse un giorno arriverò fino a Milano. E così ho cominciato a giocare a tennis. Pietrangeli in breve tempo diventa un campione. Fisico possente, arriva a pesare 80 kg quando ha meno di 18 anni. Nicola cura anche lo stile. Potenza ed eleganza insieme, quindi, ne fanno uno splendido attaccante da fondocampo che ha nel rovescio il suo colpo chiave. Lì fisicamente il fisico c'entrava molto meno. Perché oggi per esempio che sono dei grandi atleti, però prima eri un talento che diventava atleta, oggi invece sei un atleta e se hai talento è meglio, perché oggi è praticamente sono tutti dei pesi massimi. Prima c'erano anche un po' di categoria di pugilatori, adesso tutti pesi massimi. Tirano dalle botte incredibili, naturalmente, soprattutto grazie alle racchette. Ma all'epoca il fisico non cambiava, diciamo, non è che ti dà un vantaggio sulla terra e uno svantaggio sull'erba. Anche perché si giocava, all'epoca si giocava praticamente, almeno in America, ma si giocava sulla terra e sull'erba. Però il fisico all'epoca contava molto, molto meno di oggi. Il primo risultato del giovane Pietrangeli è la conquista del titolo italiano juniores a 18 anni, nel 1951. A questo segue nel 1954 la conquista del primo titolo di doppio negli assoluti, in coppia con Giorgio Facchini. È il primo di una innumerevole serie di titoli italiani che Pietrangeli vince in doppio, i successivi con il suo storico compagno, Orlando Sirola. Il più forte tennista italiano, questo in breve diventa Nicola Pietrangeli. 2 successi al Roland Garros nel 1960 e nel 1961 lo fanno diventare il numero uno al mondo su terra battuta. A questi 2 trionfi vanno aggiunti la vittoria agli internazionali d'Italia del 1957 e del 1961, altre 2 finali a Parigi 1961 e 64 e a Roma 1958 e 1966. i quarti di finale all'Australian Open nel 1957 e una semifinale a Wimbledon nel 1960, quando si deve arrendere in 5 set al grande Rod Laver, da alcuni considerato il più grande atleta di questo sport. Io con Rod ho giocato 6 o 7 volte, solamente una volta sulla terra battuta, e ha avuto l'audacia di vincere il primo set e poi ha fatto 4 game in 3 set. Difatti lo dice sempre, io ho fatto colazione con Rod in novembre a San Diego quando giocavamo nelle ragazze, e lui, mi ricordo con chi eravamo, dice: meno male con Nicolo giocava una volta sola sulla terra, perché lì 6-4 al quinto set, insomma 2-7-1 per me, beh, potevo vincere. E poi la Coppa Davis, come detto, sfiorata e mai raggiunta per via di quel maledetto Challenge Round. Insomma, Pietrangeli è un campione vero, uno di quelli di cui si dice però che non ha vinto quanto avrebbe potuto. Il motivo? Beh, è convinzione diffusa che Nicola abbia sempre preferito godersi pienamente la vita piuttosto che seguire i principi quasi monastici della vita d'atleta. Pare insomma che Pietrangeli abbia sempre prediletto una serata in discoteca a una seduta di allenamento, sopperendo a queste mancanze con una straripante e straordinaria solidità atletica che gli permetteva di sfruttare al massimo tutte le sue energie. Un aneddoto passato alla storia è assolutamente emblematico. Una volta, prima di una finale contro l'australiano Bory, Pietrangeli gioca un'ora a pallone nel prato di una villa di proprietà della moglie del giornalista ed ex tennista Gianni Clerici, a Bellagio. Dopodiché si fa trainare da un motoscafo sugli sci d'acqua per alcuni chilometri fino a un famoso ristorante dove mangia per due. Infine, sempre sugli sci, sbarca a Como per la finale, dove distrugge il povero australiano che invece si era preparato per la finale come un vero atleta. A Santiago, in Cile, nel 1976, a 43 anni suonati, conclusa la carriera agonistica, Nicola Pietrangeli è in panchina a guidare gli azzurri. La sua carriera, a dire il vero, non è finita da molto. Nel 1969, pochi anni prima, Nicola, a 36 anni, è ancora campione italiano. Intorno sembra esserci il deserto, preoccupa l'assenza totale di possibili eredi. La fine degli anni 60 è un momento delicato per il tennis mondiale. Nel 1968 inizia la cosiddetta Era Open, un concetto che molti appassionati di tennis avranno spesso sentito nominare. Che cos'è? Beh, fino al 1968 il tennis è come diviso in due enormi categorie, due circuiti separati, i professionisti e i dilettanti. I tornei maggiori, i Grand Slam ad esempio, sono destinati agli amatori, che sono tali solo di fatto, dovendo dedicare comunque tutta la loro vita allo sport. Pietrangeli sceglie di non passare mai al professionismo e quando questa distinzione cade, la sua carriera volge ormai al termine. Mi sono commosso perché il momento che io accettavo di passare professionista non avrei più giocato la Coppa Davis, non avrei più giocato i tornei dei Grand Slam. Era un altro mondo, proprio veramente un altro, un mondo di, non voglio dire di schiavi, ma c'era un mondo che io non ho mai voluto, non so, non dico accettare, avrei guadagnato dei soldi sicuramente, perché tra i cosiddetti dilettanti ce n'erano un po', ma non certamente quelli lì. Però come mi dicono sempre, ma ti fossi allenato di più avresti vinto di più, e io rispondo sempre sì, ma mi sarei divertito molto meno. Nel caos di questi cambiamenti, mentre l'Italia cerca un erede, Nicola raggiunge un'altra finale dei campionati italiani nel 1970 a 37 anni. Davanti si trova un ragazzo di 20 anni. Una promessa, si dice. Un lampo di luce nel buio di uno sport che cerca disperatamente un nuovo profeta. Un avversario con cui Pietrangeli fa in tempo a vivere una fugace rivalità agonistica, per poi ingaggiarne un'altra più acre a distanza e accantonare le ruggini nella finale di Santiago, da cui siamo partiti. Il suo nome è Adriano Panatta. Adriano Panatta. Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Probabilmente i due atleti più forti della storia del tennis italiano. Pietrangeli, classe 1933, domina la scena alla fine degli anni 50 e negli anni 60. Panatta esplode nel decennio successivo, all'inizio della cosiddetta Era Open. I due però fanno in tempo a incontrarsi, a Bologna, nella finale degli assoluti italiani. Lui aveva 20 anni, io già 37, importante pure quello, perché non è che ce l'aveva Stavo io 4-1 al quinto set, insomma, è un incontro che io avrei dovuto vincere, quello penso. Il secondo a Firenze, sempre 6-4 al quinto set, era un giustissimo passaggio dello scettro, chiamiamolo così. Come ricorda Pietrangeli, vince Panatta, 6-4 al quinto set, e bissa il successo l'anno dopo, legittimando quindi il passaggio di consegne ai vertici del tennis italiano. Noi ci siamo incontrati, io all'inizio della mia carriera, perché io avevo 20 anni e Nicola ne aveva 37, lui, diciamo che Nicola era la fine della carriera, assolutamente. Per cui diciamo che era un fatto abbastanza naturale, ecco, che ci fosse, diciamo, il cambio, il passaggio della staffetta, diciamo così. E sì, logico che Nicola è stato sempre un grande campione, per cui nel nostro immaginario di noi ragazzi, ragazzini, era quello che non è stata mai uno ostacolo, vuol dire, non è stata mai una barriera che io volevo abbattere per chissà quale motivo. È stato un fatto abbastanza naturale, io stavo crescendo, lui logicamente era un po' alla fine della sua carriera agonistica ed è successo tutto. Poi è logico che mi ha fatto piacere battere Nicola Pietrangeli nella finale dei campionati italiani. Poi siamo incontrati anche l'anno dopo, sì, è successa la stessa cosa, praticamente, e questo è quanto. Adriano Panatta è nato a Roma nel 1950. Anche lui, come Pietrangeli, sembra avere il tennis scritto nel destino. Il padre Ascenzio, infatti, fa il custode in un prestigioso circolo tennistico. Ma guardi, io sono nato dentro un circolo di tennis, ma mio padre faceva il custode del tennis di Fariori, per cui sono nato dentro, diciamo, un impianto di tennis. Per cui successivamente mio padre mi iscrisse alla scuola tennis del CONI. Io avevo chiesto di iscrivermi alla scuola di nuoto del CONI, ma non c'era più posto, allora mi iscrisse a tennis e ho detto vabbè, proviamo con tennis, con la storia. E poi subito dopo ho cominciato a fare la scuola del CONI, successivamente quando ero ragazzino ho cominciato a giocare le gare giovanili per il tennis Parioli e c'era da fare un po' la mia carriera. Il circolo Parioli è quello frequentato anche da Nicola Pietrangeli, il quale è molto amico del padre di Adriano. I due si conosceranno proprio su quei campi. Il momento che è nato Adriano, che me lo ricordo benissimo, perché mi pare fosse sia il 10 di luglio. Che Ascenzio non era, come posso dire, il custode del campo. Ascenzio era un amico nostro, Ascenzio stava lì e per caso faceva anche il custode del campo, però quando è arrivato lì, che stavamo, io stavo zitto perché ero un ragazzino, i grandi parlavano della Lazio, della Roma, arriva Ascenzio e fa, oh, mi è nato un figlio, risposta, ma che ci frega il tuo figlio, qui stavo parlando della Lazio, della Roma. La carriera di Adriano Panatta è rapida ed esaltante. Il suo gioco è talentuoso e vario. Adriano è un giocatore offensivo, dotato di grandissima sensibilità di tocco e di grande propensione al gioco di volo. Adriano è uno di quelli che è nato per giocare a tennis. Adriano aveva, perché ormai anche lui è un ex, aveva un talento, aveva era nato per giocare a tennis. Secondo me così si scoprono i campioni. I campioni non si fabbricano. Se tu hai la fortuna di fare quello che devi fare o quello che Gesù Bambino ti ha detto di fare. La ribalta nazionale per Adriano Panatta arriva con il doppio successo su Pietrangeli. Poi arrivano i successi a Bournemouth, le finali perse ad Amburgo e a Gstaad, la vittoria a Firenze e poi a Kitzbühel. Inizia a competere ad armi pari con i grandi del tennis di quegli anni, da Jimmy Connors a Bjorn Borg. Nonostante il suo gioco offensivo, la superficie prediletta è la terra rossa, sulla quale diventa uno dei top player a livello mondiale. The best is yet to come and babe, won't it be fine? L'anno di grazia di Adriano Panatta è il 1976. In quell'anno il vero capolavoro è il Roland Garros di Parigi, il maggior torneo mondiale su terra battuta. In una cavalcata trionfale, Panatta riesce a liquidare, dopo una battaglia di 5 set, Sua Maestà Bjorn Borg e a imporsi in finale su Harold Solomon. Panatta ha recuperé e il mène rapidement au début du quatrième set. À 5-2 et son service, il semble bien avoir le match en main. Panatta a perdu un autre service et il est maintenant mené 5-6. Nel 1976 arrivano anche gli internazionali d'Italia, con la vittoria su Guillermo Vilas in finale e la finale a Gstaad. Panatta si issa fino al quarto posto nel ranking mondiale, la posizione più alta mai raggiunta da un tennista italiano nell'era Open. Intanto in quel periodo che giocavo io, i giocatori d'attacco erano un certo numero, insomma, non ero solo a giocare d'attacco, perché c'erano gli australiani, c'erano gli americani che giocavano d'attacco abbastanza. E lo consentiva un tipo di gioco che oggi non c'è più, lo consentiva anche un tipo di attrezzo che oggi non c'è più. E la concezione di quello che era il tennis, diciamo, negli anni 70, che consentiva appunto un certo tipo di gioco che, cioè, molti giocatori non servivano molto forte, molti giocatori non avevano grandi capacità a rete, invece c'erano un tipo di giocatori di una certa scuola che riuscivano a fare questo gioco, insomma. In quegli anni lì c'erano qualche attaccante, ma già in quegli anni lì c'erano quei giocatori tipo Borg, Vilas e tanti altri che invece avevano un gioco che è un po' paragonabile a quello di oggi. La ciliegina sulla torta di quel 1976 non può che essere la Coppa Davis, la prestigiosa insalatiera d'argento che l'Italia non ha mai vinto. Il team azzurro è fortissimo. La punta di diamante è Panatta. Ma accanto a lui ci sono tre tennisti di valore assoluto come Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli. L'allenatore è Mario Belardinelli, tecnico della federazione, soprannominato anche l'uomo che insegnò il rovescio al Duce, in quanto nel 1939 aveva dato qualche lezione di tennis a Torlonia a Benito Mussolini. Completa il team il capitano non giocatore, il coach, figura chiave per ogni team di Coppa Davis. Naturalmente, Nicola Pietrangeli. Però è anche vero, quando io sono stato nominato, tra parentesi, me l'ha detto un giornalista, neanche me l'ha detto la federazione. Vabbè, allora io mi sono trovato due squadre, perché Panatta e Bertolucci non parlavano con Zugarelli e Barazzutti. Per ragioni loro, perché poi io non c'entravo, quindi a un certo momento ho cominciato a dire: ragazzi, ma qui se vogliamo fare una squadra, qui e bisogna che in un certo momento, non dico che vi date dei baci in bocca, ma insomma è anche che fate vedere che siamo due squadre. E piano piano hanno capito, e guarda caso poi al primo colpo, perché quando sono stato nominato, la cosa divertente è che, non essendo simpatico a tutti, e mi va pure bene, naturalmente qualcuno ha detto: beh, mo è arrivato questo, e chissà che farà questo. Pietrangeli lavora sulla psicologia e sullo spirito di squadra. Riesce ad amalgamare il team. I primi due incontri del girone europeo con la Polonia e la Jugoslavia terminano col risultato di 5-0 per l'Italia. A luglio gli azzurri devono affrontare a Roma la nazionale svedese, detentrice del trofeo. Panatta ha da poco trionfato a Roma e al Roland Garros e trascina gli azzurri alla vittoria anche grazie all'inaspettato forfait di Bjorn Borg, fresco vincitore del suo primo torneo a Wimbledon. Avversari nella finale europea sono gli inglesi, cui spetta la scelta della superficie. La scelta ricade sull'erba di Wimbledon, superficie ostica ai giocatori italiani abituati alla terra. Pietrangeli decide di far giocare Zugarelli al posto di Barazzutti, convinto delle maggiori chance del primo sulle superfici veloci. La mossa risulta vincente e Zugarelli vince il primo singolare su Roger Taylor, mentre Panatta la meglio su Lloyd. Perduto l'incontro del doppio, nonostante tre match point e un interminabile quarto set, Adriano Panatta si assicura il punto decisivo battendo Taylor. L'Italia stacca il biglietto per le semifinali, in cui incontrerà l'Australia, la squadra favorita per la vittoria finale. Per fortuna si gioca in Italia e all'Italia spetta la scelta della superficie. Si gioca al Foro Italico a settembre, su terra, superficie che non favorisce certo campioni come John Newcomb, John Alexander e la mitica coppia di doppio Newcomb-Roche. Barazzutti batte Newcomb, Panatta perde contro Alexander, fissando il punteggio della prima giornata sull'1-1. Il doppio composto da Panatta e Bertolucci sconfigge con una prestazione straordinaria Newcomb e Roche. La terza giornata si apre con la vittoria di Alexander su Barazzutti. Si va all'incontro decisivo tra Panatta e Newcomb. Il match va per le lunghe, viene interrotto per oscurità e si conclude a favore dell'italiano il lunedì. Panatta e Pietrangeli, i due più grandi campioni della storia del tennis azzurro, divisi da 17 anni e da una dura e sportiva rivalità, si ritroveranno insieme a giocarsi la Coppa Davis. Sarà la finale più difficile, non sul piano sportivo, bensì su quello ambientale. Si va nel Cile di Augusto Pinochet. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia di una rivalità a distanza, quella tra Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, una rivalità che si trasforma in uno straordinario sodalizio sportivo quando, nel 1976, i due trascinano l'Italia del tennis nella finale di Coppa Davis, il primo come numero uno azzurro, il secondo come coach. Avversario degli azzurri è il Cile. Tennisticamente parlando, la squadra cilena è piuttosto modesta. Si trova in finale soprattutto perché diverse nazionali, tra cui l'Unione Sovietica in semifinale, si sono rifiutate di giocare come forma di protesta verso il sanguinoso golpe realizzato da Augusto Pinochet. Intorno a quella finale si scatena un vero e proprio pandemonio mediatico: giocare o non giocare. Il dilemma divide l'opinione pubblica e arriva addirittura in Parlamento. Nicola ha avuto, secondo me, il grande merito, soprattutto nella trasferta in Cile, dove con tutte le polemiche che c'erano prima della trasferta, in cui c'era diventato anche un caso politico, insomma, vero e proprio, insomma, è arrivato in Parlamento e più alte sfere, diciamo, del governo di quel periodo lì, è stato molto bravo, perché ha sempre tenuto molto, diciamo, le posizioni che la squadra doveva andare a giocare e non, diciamo, non è mai indietreggiato, diciamo, in quella famosa polemica, diciamo, politica che c'era. Però logicamente anche noi eravamo d'accordo con lui, non c'era nessuno di noi che pensava che fosse giusto non andare, al di là delle convinzioni politiche. E questo è un grosso merito di Nicola. La politica italiana in pratica non riesce a prendere una posizione univoca e si divide in infinite polemiche. Gli esponenti della sinistra non vorrebbero che la squadra partecipasse. I democristiani sì. Pietrangeli si mette di traverso. Fa pressioni sul presidente federale e sul presidente del CONI affinché l'Italia giochi. È un'occasione ghiottissima per portare a casa la Coppa. Altrettanto importante sarebbe non lasciarla al Cile del dittatore Pinochet, che potrebbe utilizzare un'eventuale vittoria come strumento di propaganda. E anche il pensiero in controtendenza di Enrico Berlinguer, che vuole che gli azzurri vadano a dare una sonora lezione alla squadra del dittatore. Alla fine arriva la decisione. Si gioca. Per le strade si accumulano le proteste. Non si giocano volé con il boia Pinochet, oppure Panatta milionario Pinochet sanguinario. Sono solo alcuni degli slogan che circolano più frequentemente nelle numerose manifestazioni di protesta. In questo clima, con la Rai che decide per protesta di non trasmettere la finale, gli azzurri, guidati da Panatta e Pietrangeli, partono per il Cile. L'arrivo della delegazione azzurra è festeggiato dai cileni con grande calore. La finale di Davis è una vetrina troppo importante per Pinochet, per dimostrare al mondo la liberalità del suo regime. L'inganno viene raccontato dal giornalista Candido Cannavò sulle pagine del suo libro Una vita in rosa. Nicola Pietrangeli è bravissimo a tenere la squadra concentrata, lontana dalle pressioni e proiettata verso un match delicato che giocherà da super favorita. Il giorno dei primi due singolari, gli azzurri giocano in scioltezza. Barazzutti sconfigge in 4 set Figliol, Panatta distrugge Corneio in 3. L'Italia si porta sul 2-0 e il più sembra fatto. Il giorno dopo, il 17 dicembre 1976, si gioca il doppio. Pietrangeli schiera la coppia più rodata, Panatta e Bertolucci. I due decidono di vincere ancor prima di entrare in campo. Nello stadio che è stato il sanguinoso tempio del golpe di 3 anni prima, sotto lo sguardo di un pubblico piccolo borghese connivente con il regime fascista di Pinochet, i due indossano provocatoriamente una maglietta rossa, gelando gli spettatori sugli spalti. Pietrangeli ha voluto fortissimamente quella finale. Panatta legittima la sua scelta fuori e dentro al campo, suggellando la sua performance con quella storica provocazione. Quando si inizia a giocare, non c'è partita. 3-7-0 e a fine match esplode la gioia degli azzurri. E questo al primo colpo abbiamo vinto la Coppa Davis. Ma dico, sicuramente sul campo è solo merito dei giocatori. Però per mille ragioni, per tante ragioni, fortuna, un sacco di cose messe insieme, più di vincere la Coppa Davis al primo colpo non si può fare. Insomma, abbastanza difficile. La loro rivalità sarà destinata a riaccendersi dall'anno successivo per diverse ragioni di politica sportiva. Però Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, campioni immortali di questo sport che nel 1970 si sono passati non solo idealmente il testimone della leadership del tennis italiano, nel 1976 costruiscono insieme un successo importante e delicato per il tennis italiano. Un successo che ad oggi rimane ineguagliato. L'Italia è ancora nell'attesa di poter conquistare la sua seconda Davis. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.